Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Fa parte del pensiero comune ormai considerare il mondo moderno come globalizzato. Grazie agli sviluppi e al progresso delle comunicazioni, del commercio e dei trasporti, il mondo in qualche modo si è rimpicciolito, avvicinando le persone, aumentando le opportunità e le occasioni per interagire, con lo scopo di influenzarsi vicendevolmente. È possibile, stando seduti alla propria scrivania, parlare con un tizio in Australia, comprarsi qualcosa da un negozio scozzese e dare un'occhiata a una casa di un quartiere argentino. Tutto questo sembrava impensabile qualche decennio fa. Ma c'è una forza che supera tutte le tecnologie e le distanze. Una forza invisibile che tira le fila senza badare al come e al perché. Oggi Destini Incrociati non vuole addentrarsi in cunicoli filosofici, ma vuole raccontare come sempre una storia, anzi due storie che iniziano e finiscono a migliaia di chilometri di distanza, sfiorandosi solo una volta su un prato verde, quanto basta per capovolgere le rispettive sorti e rimescolare le carte. Il calcio ha significato troppo per me e continua a significare troppe cose. Dopo un po' ti si mescola tutto in testa e non riesci più a capire se la vita è una merda perché l'Arsenal fa schifo o viceversa. Sono andato a vedere troppe partite, ho speso troppi soldi. Mi sono incazzato per l'Arsenal quando avrei dovuto incazzarmi per altre cose. Ho preteso troppo dalla gente che amo. Ok, va bene tutto. Ma non lo so, forse è qualcosa che non puoi capire se non ci sei dentro. Quando il calcio è la vita, è inevitabile che la vita dipenda da esso. Esattamente come afferma il tifoso dell'Arsenal che avete appena sentito, il simpatico protagonista della pellicola Febbre a 90, tratta dall'omonimo romanzo di Nick Hornby. Un tifoso, un fan sfegatato, che finisce per confondere il quotidiano e il gioco e a legarli in maniera indissolubile in uno strano intreccio di cause ed effetti. Ma per chi è un appassionato come lui, c'è un distinguo importante da fare. Questa dipendenza pare più che altro una scelta, una decisione più o meno volontaria, più o meno condivisibile. Diverso è il discorso per chi invece è un addetto ai lavori, chi per mestiere e per esistenza dipende in tutto e per tutto dal calcio. C'è una storia che inizia come tante altre. C'è un ragazzino a cui piace il pallone e vuole entrare nel mondo del gioco più amato dagli italiani. Inizia in Romagna e più precisamente a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. È qui che viene alla luce un giorno di metà novembre del 1921 il quinto figlio di una famiglia semplice e umile. Il suo nome è Edmondo Fabbri. Edmondo Fabbri. È in provincia che il piccolo cresce e coltiva il suo sogno mentre sviluppa tutti quegli aspetti che lo caratterizzeranno, la modestia e la testardaggine su tutte. Edmondo è un ragazzino minuto e fragile, aspetto che contrasta con la volontà ferrea e l'orgoglio che maturano nella sua testa, tanto da portarlo esattamente dove lui vuole finire, cioè su un campo di pallone. Non è ancora maggiorenne che Topolino, come lo hanno soprannominato, ha già capito che il suo futuro non sarà certo vendere polli come suo padre, piuttosto saltare gli avversari. Il suo ruolo infatti è l'ala e una volta cominciato a correre sulla fascia non si ferma più. La carriera di calciatore di Fabbri si sviluppa dapprima nella sua regione a Imola e a Forlì, per poi trasferirsi in Lombardia a Bergamo per due stagioni e successivamente a Milano nell'Ambrosiana Inter, dove tornerà dopo la guerra con una breve sosta a Faenza durante il periodo bellico. Toccherà quindi Genova, sponda Sampdoria e infine nell'ordine ancora Bergamo, Brescia e Parma, prima di terminare la carriera nelle serie minori a Mantova. Corre Edmondo e gioca bene. Ecco come viene descritto nelle cronache dei tempi. Ha la brevilinea dallo scatto bruciante. Costringe spesso gli avversari a raddoppiare su di lui, dandogli la possibilità di smistare la palla al compagno rimasto libero. E appena può, va alla conclusione spesso in maniera felice. La sua rapidità è difficile da digerire per i difensori avversari, che spesso si vedono costretti a ricorrere alla scorrettezza per frenarlo. Nelle giornate di grazia è però impossibile fermarlo. Il problema arriva quando il generale inverno appesantisce i campi, con pioggia o neve, e questo, soprattutto al nord, succede spesso, per cui in alcune gare si limita a fare da spettatore. Terminato il suo percorso da calciatore mondino, soprannome che soppianterà tutti gli altri e che si porterà dietro per tutta la vita, si ferma, come abbiamo detto, a Mantova, ma non abbandona il calcio, non potrebbe mai farlo. Inizia un altro percorso che gli consentirà di togliersi quelle soddisfazioni che gli sono mancate da giocatore. Nella società, infatti, è da poco arrivato Italo Allodi, un grande conoscitore di calcio, con un ottimo fiuto nonostante una carriera da calciatore poco soddisfacente. Nominato segretario amministrativo, Allodi presto va oltre il suo ruolo, incarnando la prima vera figura del dirigente sportivo moderno. Convince Fabbri ad allenare e insieme costruiscono un piccolo miracolo. I due infatti prendono in mano le redini della squadra e la trasformano. Mentre Allodi si assicura giocatori di qualità, tra cui qualcuno che diventerà presto una vera e propria bandiera come Giagnoni e l'attaccante Fantini, Fabbri trova la sua ideale collocazione sulla panchina, trasmettendo il suo credo fatto di aggressività, sostanza e anche spettacolo. Sentite Giagnoni in un'intervista concessa per i 100 anni del Mantova. Ci fu una selezione dalla quarta serie alla quarta serie d'eccellenza. Ci fu la quarta serie d'eccellenza, l'anno in cui arrivai anch'io, nel 57, quell'anno lì, e andammo avanti, come si può dire, sempre in questo programma un po', che Fabbri era un ambizioso, voleva, tant'è vero, è stato aiutato molto da Italo Allodi, perché con Fantini e Allodi e Martinelli anche, aiutando l'Allodi, gli ha proposto tutti i nomi, il mio, quello di Fantini, quello di Martinelli, quello di Bibolini. Nel giro di poco tempo questa piccola scommessa diventa una grande realtà. Dopo un inevitabile periodo di assestamento, il Mantova decolla e comincia a scalare le categorie come fossero noccioline. Nel 58-59, dopo due promozioni consecutive, il Mantova approda in Serie C e qui, invece di squagliarsi, continua a seminare conferme. Guidata da Fabbri, dalla sua impostazione brillante e dal suo spirito maidomo, l'11 Lombardo viene definito da tifosi e critici il piccolo Brasile, nome che racchiude in maniera esemplare i due pilastri su cui poggia la filosofia di Mondino, l'umiltà e la tecnica. Il 28 giugno 1959 il piccolo Brasile compie il suo capolavoro. Rimasto dopo pochi minuti in 10 per infortunio, a quel tempo non c'erano sostituzioni, vince la partita e grazie a una prestazione tutto cuore e grinta conquista la Serie B. L'altezza non dà certo le vertigini al Mantova e al suo allenatore, che completano il miracolo l'anno successivo approdando in Serie A. Sembra incredibile, in 5 anni Fabbri ha portato i suoi ragazzi dall'eccellenza alla massima serie, un volo fulmineo e senza precedenti che lascia tutti di stucco. Or maybe not. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Why'd you wanna go and put stars in their eyes? So why'd you wanna go and put stars in their eyes? Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Stars in their eyes. Siamo nel 1961, nella massima serie del campionato italiano di calcio. Tra le partecipanti del torneo c'è il Mantova, la provinciale che ha stupito tutti perché, guidata dal suo allenatore Edmondo Fabbri, in pochi anni è passata dalle stalle alle stelle, raccogliendo consensi unanimi. L'avventura nel calcio che conta non spaventa l'11 di Mondino, che affronta il campionato con il consueto mix di umiltà e spavalderia. La squadra è naturalmente cambiata nel corso degli anni, ma il merito dell'allenatore è stato quello di mantenere una continuità nello spirito e nell'applicazione. Il Mantova chiuderà il campionato al 9° posto, davanti anche alla gloriosa Juventus. Qualcosa però è andato deteriorandosi. Il rapporto tra il tecnico e il presidente Nuvolari si è incrinato e spacca in due la città. Al ristorante da Gastone, rettore magnifico dell'Università del Calcio, ci sono i Fabbriani a oltranza. Al bar sociale, capitanati dall'avvocato Antonio Fario, gli Antiomino di Castel Bolognese. È la fine di un ciclo che lascia intravedere qualche crepa nella vita di Fabbri. È evidente che non sarà facile per lui trovare pace in ciò che lo circonda. In fondo è il destino di ogni allenatore di calcio. Ma per ora sono poco più che rumori di sottofondo. Al termine della stagione Fabbri viene insignito del Seminatore d'Oro, il premio destinato al migliore allenatore dell'anno, e la sua carriera decolla. Rimane per un po' di tempo in bilico tra le lusinghe piene di zeri di Angelo Moratti, che lo vorrebbe alla guida della sua Inter, e la Federazione, che, complice un mondiale appena conclusosi in modo disastroso, sta meditando una piccola rivoluzione. Per Mondino è un periodo strano. L'Inter è una tentazione, non solo economica. Tra i nerazzurri è da poco arrivato quell'Italo Allodi che ha contribuito a creare il suo Mantova dei miracoli. Ma la nazionale è sempre la nazionale. L'impasse viene risolto dal presidente Moratti, che vira la sua scelta verso Elenio Herrera e abbandona Mondino. A questo punto la scelta è obbligata. Fabbri accetta l'incarico alla nazionale, ma la ferita della bocciatura all'Inter brucerà a lungo. Al di là dei particolari, tuttavia, la realtà vede un uomo all'apice della sua carriera. Ed è qui che lasciamo Edmondo, in cima, per spostarci dall'altro capo del globo. This is Tolima statue. In a Korean legend, Tolima is a winged horse that is said to cover 1,000 ri in a day. Siamo in Corea del Nord, dall'altro capo del mondo. Una nazione misteriosa e piena di ombre. Quella che avete appena sentito è la descrizione della statua di Cho-Li-Ma, che troneggia a Pyongyang, la capitale. Rappresenta un cavallo alato che, secondo la leggenda coreana, era capace di percorrere 1,000 li al giorno, che corrispondono a circa 400 chilometri. È nello spirito di questo animale mitologico che questo strano paese si è evoluto di recente. Alla fine del secondo conflitto bellico mondiale, infatti, la Corea diviene teatro del primo vero scontro della Guerra Fredda. Prima nazione unica, unita, la Corea viene divisa al 38° parallelo, dopo la resa del Giappone, seguendo lo stesso principio che toccherà poco dopo anche a Berlino. La parte nord è affidata al controllo sovietico, mentre quella a sud viene presidiata dagli americani. All'indomani della capitolazione giapponese, Kim Il-sung, il leader che aveva guidato l'esercito rivoluzionario popolare coreano nella resistenza, si impone come il principale dirigente del paese in qualità di segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea, nato dalla fusione del Partito Comunista e del Partito Neodemocratico. Il Comitato Popolare Provvisorio della Corea del Nord esercita le funzioni di governo provvisorio e Kim Il-sung, imbevuto di stalinismo e confucianesimo, inizia una politica che porterà la parte nord all'isolamento. Dopo una serie di nazionalizzazioni e provvedimenti restrittivi, si rende protagonista di alcuni incidenti di frontiera che culminano in un'invasione della parte sud, invasione che provoca la reazione degli Stati Uniti e dell'ONU. Seguono la guerra di Corea e 3 anni di conflitto che sanciscono il definitivo distacco da Seul e dal resto del mondo. Inizia infatti per i nordcoreani un periodo di isolamento dietro le spalle di Kim Il-sung, per tutti ormai divenuto il grande leader. C'è, ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è, ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte lisa, quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte lisa, e quando uccide non chiede scusa. Tutta la popolazione nordcoreana vive essenzialmente della luce del grande leader, del presidente eterno, che è Kim Il-sung. E ogni aspetto della vita di ogni singolo nordcoreano è segnata da questa figura, che è come il padre di tutti quanti. A scuola i coreani studiano fondamentalmente gli scritti di Kim Il-sung. È tutto impostato sulla figura del leader, del presidente eterno. E la voce di Jerry Morellini, autore del libro Dossier Corea, in un'intervista dove tenta di spiegare cosa ci sia dietro questa nazione. Un leader, un dittatore che, assunto il potere, trascina la popolazione asiatica in un tunnel senza uscita. Dopo il pesantissimo costo umano e materiale della guerra, celebrata in Corea del Nord come una vittoria sugli Stati Uniti, il paese ricostruisce la sua economia e si industrializza rapidamente, alla velocità di Cho-Li-Ma, il mitico cavallo alato. Ed è in questo contesto che incontriamo uno strano personaggio. Quella che avete appena sentito è proprio la sua voce. È stata catturata da 2 intraprendenti filmmaker inglesi che hanno girato un documentario. Come dice egli stesso, il suo nome è Park Do-hwik. Park Do-hwik. Quello che Park Do-hwik non dice, e cioè gran parte della sua storia, fa parte di quel mistero chiamato Corea del Nord. Una massa indistinta di uomini e donne che lavorano e vivono senza sosta. Park Do-hwik, ex tipografo, ora nei quadri dell'esercito, è uno come tanti. E come la maggior parte dei suoi connazionali, il suo unico pensiero è quello di contribuire allo sviluppo della nazione, come richiesto da Kim Il-sung. Le parole questa volta sono quelle di Myung-Rae-Yoon, di professione allenatore di calcio. Nel suo timbro così simile al suo carattere c'è la spiegazione di quello che sta avvenendo. Siamo a Pyongyang, la capitale, e la nazionale nordcoreana di calcio si sta allenando per prepararsi alle qualificazioni per la Coppa del Mondo del 1966 che si terrà in Inghilterra. Fra le fila dei giocatori, piccoli, magri, scattanti, con gli occhi incollati sul pallone, c'è anche Park Duik. Ha 20 anni, ha la maglia numero 7 sulle spalle. Non è importante come sia arrivato lì, semplicemente ha iniziato a giocare. Come gli altri, corre e si allena mattino e pomeriggio, tutti i giorni, ispirato da Cho Lee Ma, che indica la strada alla popolazione. Ed è proprio a seguire le indicazioni dell'allenatore, che in realtà sono quelle del grande leader, il quale ha dato ordini inequivocabili. Per essere un buon coreano e un buon giocatore bisogna correre più degli altri ed essere precisi nel tiro. Park Duik ha capito. Non ha alzato la testa, ma ha capito. E lo dimostrerà. Tra poco, a Destini Incrociati. Mike check. 1, 2. Sani가 왔어요, Sani. 값싸고 맛 좋은 Sani가 왔어요. Yeah, boy. Yo, yo, 안녕하세요. Mic check 1 2 1 2. 산이랑 놀 사람 여기 붙어라. 짜자잔. 자 애들은 가. 촌스러운 랩하는 애들은 봐. 이모 삼촌 잠깐이면 돼. 안 사도 되니 한번 듣고 나가 싸게 드릴게. 골라 골라 산이를 골라. 들으면 놀라 자빠지고 막 몰랐던 애들은 엄마한테 졸라. 엄마 엄마 이거 사줬나. 산이 준비됐나. Destini incrociati. Siamo negli anni 60, in giro per il globo a cercare di avvicinare due vite che per adesso sembrano più che mai lontane. Da una parte Edmondo Fabbri, astro nascente delle panchine di calcio, che è entrato nel mondo del pallone, lo ha percorso correndo da giocatore e poi lo ha colpito dalla panchina come tecnico del suo Mantova, portato in pochissimo tempo dall'anonimato alla Serie A. Per lui ora si sono aperte un po' a sorpresa le porte della nazionale. Toccherà a Mondino guidarla verso l'imminente mondiale. Dall'altra c'è Park Duik, soldatino di quell'esercito obbediente che è il popolo nordcoreano, tassello di un mosaico voluto e creato a sua immagine e somiglianza da Kim Il-sung, il grande leader, dittatore amato e temuto di un paese che nessuno osa avvicinare. Anche Park Duik sta cercando di raggiungere il mondiale a testa bassa. L'avventura di Fabbri sulla panchina azzurra comincia nel novembre del 1962 al Prater di Vienna, dove una doppietta di Ezio Pascutti, punta del Bologna, regala una storica vittoria sull'Austria, attesa da 35 anni. Dopo altri 4 successi, compreso un 3-0 rifilato al Brasile di Pelé, Fabbri si imbatte nel primo intoppo il 13 ottobre 1963 a Mosca, dove l'Italia si arrende ai sovietici, complice l'espulsione proprio di Pascutti. La seguente esclusione dalla fase finale dell'Europeo 64 non intacca comunque la fiducia federale in Mondino, che deve tuttavia vedersela con la critica che gli imputa di trascurare il blocco difensivo interista, il migliore di Italia, mentre lui stravede per la retroguardia bolognese e i piedi buoni. Sentite cosa scrive l'indimenticato Gianni Brera dopo la sconfitta con i russi. Discuto il tuo attacco, Mondi, e lo definisco abatinesco e perfino onanista. Il loro calcio è masturbazio pedatoria. Titic e titoc, forse importato. Tocchetti, ammassamenti e gli avversari a rispondere lungo e i sovietici, meno bamba degli austriaci, a rete in piena gloria. La colorita e divertente osservazione di Brera si inserisce a pieno titolo nel dibattito che ha sempre segnato il football nostrano. I profeti del calcio all'italiana e della sua efficacia contro gli ammiratori del bel gioco e dei piedi buoni. La nazionale di Fabbri è certamente più vicina a questi ultimi. I suoi sono dettami che spingono alla manovra e i giocatori a cui si affida sono uomini di grande tecnica individuale. Mondino non abbandona quelle che sono state le sue caratteristiche fin da giovane, la testardaggine, l'umiltà e l'ambizione. Prosegue con il suo progetto, forte comunque di risultati che lo sostengono. La marcia di avvicinamento ai mondiali è a dir poco trionfale. 6-1 alla Bulgaria, 1-0 all'Austria, 3-0 all'Argentina e 5-0 al Messico nell'ultima amichevole di preparazione. L'Italia vola in Inghilterra con il vento in poppa e con grandi aspettative di riscatto delle tante delusioni patite dal calcio italiano dopo i due trionfi del 1934 e del 1938. Intanto, migliaia di chilometri più in là, Park Duik si allena insieme ai suoi compagni. Insieme a loro può giocarsi una grande possibilità, quella di portare in Inghilterra il grande spirito di Cho Lim-ah e di far conoscere al mondo la grandezza e la forza della Corea del Nord e del grande leader. L'occasione è unica. Asia, Africa e Oceania hanno diritto a un solo posto per la fase finale. L'Africa, indignata, rifiuta di partecipare alle qualificazioni e così anche la Corea del Sud e il Sudafrica, escluso per l'apartheid. Rimangono la Corea del Nord e l'Australia, che si giocheranno l'accesso con uno spareggio. La cronaca è quasi surreale. Poiché nessuna delle due nazioni riconosce l'altra, viene deciso che l'incontro si terrà a Phnom Penh, capitale della Cambogia. Le squadre giocheranno andata e ritorno nel giro di 3 giorni. È uno scontro tra due popoli, due mondi che si ignorano. I pochi giornalisti interessati naturalmente non danno chance alla Corea. Gli stessi australiani sorridono appena vedono gli avversari allenarsi, correndo come matti, tutti ordinatamente in fila. Li guardano come se fossero marziani. E così decidono di non adottare alcuna tattica in particolare. Scelgono di giocare e basta. Lo fanno in uno stadio diviso equamente a metà. Non c'è neanche il tempo di capire bene cosa succede. I coreani vincono 6-1 all'andata e 3-1 al ritorno. L'Australia torna a casa a testa bassa. Eppure la Corea, mentre la Cambogia torna al suo quotidiano. Tutto svanisce come uno strano sogno che termina al risveglio. La realtà è che la Corea parteciperà alla fase finale di Coppa del Mondo in Inghilterra. L'allenatore, i giocatori e tutto lo staff rendono omaggio alla loro patria e al loro eterno leader. Avranno la possibilità di rendere orgoglioso il proprio popolo. Il Cho Lim-ah Team, come è stato ribattezzato, parte in mezzo a 1000 punti interrogativi, con tanto coraggio e un po' di paura. Il leader è benevolo e molto saggio, ma sa essere anche spietato con chi non è capace di onorare la nazione. È per questo che durante il viaggio i compagni intonano tutti insieme una canzone che hanno scritto, che serve a tenere il morale alto e a portarsi dietro un pezzetto di casa, e che ancora oggi cantano allo stesso modo, a memoria e con orgoglio. 조국의 용예를 두게 걸머지. La squadra nordcoreana parte sulle note della fiducia per affrontare il campionato del mondo. Per loro c'è qualcosa di più di un semplice evento sportivo. A ospitarli sarà l'Inghilterra, paese che ha sostenuto gli Stati Uniti nella guerra di Corea. I coreani sono sicuri che troveranno un ambiente ostile, British, ma molto ostile. Sulla loro strada troveranno la Russia, il Cile e l'Italia, guidata da un omino piccolo ma determinato. Due vite che non hanno nulla in comune, stanno per incrociare i loro destini. So take the photographs and still friends in your mind, hanging on a shelf in good health and good time, tattoos and memories and dead skin on trial, for what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Siamo in Inghilterra, al via della Coppa del Mondo di Calcio. Italia e Corea sono nello stesso girone, il numero 4, e si incontreranno nell'ultimo turno. Fabbri e Park Duik, i nostri due protagonisti, vivono questi momenti di attesa in modo diverso, ma con sentimenti in comune. C'è paura e speranza per entrambi. L'Italia di Mondino parte bene. Sconfigge per 2-0 il Cile in una specie di rivincita del mondiale precedente, grazie ai gol di Mazzola e Barison. Poi, nel secondo incontro, impatta contro la muscolosa Russia, che sconfigge gli azzurri per 1-0. Durante la partita si infortuna Bulgarelli, uno dei pilastri della formazione. La sua presenza per il match successivo è in dubbio. Lo spogliatoio e la critica, sempre alle prese con le solite baruffe su formazioni e preferenze, fanno scricchiolare la fiducia di Fabbri, che come al solito accumula orgoglio e guarda avanti. Basterà non perdere contro la Corea del Nord per qualificarsi. Non è certo un'impresa impossibile. Per Park Duik il discorso è inverso. La Corea del Nord parte male, anzi malissimo, ed esce con 3 gol al passivo dall'incontro con la Russia. I piccoli coreani vengono travolti dal vigore e dai muscoli sovietici. Ma già dalla seconda partita qualcosa cambia. Contro il Cile il pubblico si schiera decisamente dalla parte degli asiatici, che sembrano non avere subito contraccolpi dalla sconfitta precedente. Il match è frizzante e la Corea tiene testa ai sudamericani, che passano in vantaggio su rigore a metà primo tempo. Park Duik e compagni non si perdono d'animo, mostrano una buona organizzazione di gioco e tanto movimento e a 5 minuti dalla fine, sotto una pioggia che certo non li aiuta, raggiungono il pareggio. Per la Corea del Nord è un piccolo trionfo. La squadra esce tra gli applausi e diventa beniamina della popolazione di Middlesbrough. Usciti dal campo, i giocatori riabbassano la testa. È già ora di pensare al prossimo match. Che finalmente arriva. Martedì 19 luglio 1966 è il giorno del giudizio. Si gioca Italia-Corea del Nord. Loro sono entrati in campo per il riscaldamento, noi eravamo a fare ginnastica, a fare... Loro invece sono entrati in campo tutti insieme, con un pallone a testa, si sono messi a metà campo e hanno cominciato a buttare il pallone in alto e a fare delle grandi rovesciate. Noi abbiamo guardati e ci siamo messi a ridere, dice, ma chi sono questi? Così Enrico Albertosi, portiere della Nazionale, ricorderà più avanti l'impatto che ebbero i giocatori coreani sui nostri quando entrarono in campo. Già nei giorni precedenti Ferruccio Valcareggi, allenatore in seconda di Fabbri, dopo avere visionato i nostri avversari, li aveva definiti una squadra di ridolini, per il loro modo di correre e muoversi come marionette. C'è un clima strano intorno a questa partita. Sugli spalti, naturalmente, gli inglesi sostengono gli asiatici. Fabbri è negli spogliatoi che si aggira nervoso. Pak Duik è insieme ai suoi compagni e nel profondo spera di lasciare il segno, in onore del grande leader. Quando i giocatori entrano in campo, i nostri giocatori guardano un po' di sbieco l'ordinata ciurma coreana. Loro, i blu, contro i marziani, i rossi. Tra le file dell'Italia c'è Bulgarelli. Mondino alla fine ha deciso di rischiarlo, nonostante molti suggerissero di tenerlo in panchina e farlo recuperare per il match successivo. Fabbri lascerà fuori qualche titolare, ma non il suo pupillo. In fondo la Corea è solo un piccolo contrattempo da sbrigare. Sentite Bulgarelli come ricorda quella scelta. Quando mi hanno detto, guarda, bisogna che tu giochi perché sei indispensabile in questo momento, io avevo male al ginocchio ed ero capitano della nazionale, come fa uno a dire di no? L'Italia parte fortissimo. Nei primi minuti di gioco sfodera tutti gli schemi e le indicazioni del suo allenatore e crea almeno 3-4 occasioni nitide per segnare. Non si capisce se è Perani, il numero 17, a sbagliare oppure Ri Chan-myong a parare tutto volando come Cho Lee-ma. Fabbri dalla panchina comincia a mostrare i primi segni di nervosismo. Pak Duik macina chilometri e corre come un matto insieme ai suoi compagni. Con il passare dei minuti la Corea comincia ad affacciarsi timidamente dalle parti di Albertosi. Non sembrano poter creare grossi problemi, ma è pur vero che gli arcigni difensori italiani fanno un po' di fatica ad arginare gli scattanti omini rossi. Mentre comincia a diffondersi una strana paura, si arriva verso la fine del primo tempo. Tutto succede in pochi minuti. Al 37esimo minuto, Bulgarelli, un po' infastidito da quegli omini scattanti che paiono non fermarsi mai e dalle occasioni sprecate, entra con decisione sul numero 8 coreano che frana sul ginocchio malandato dell'azzurro. Sono attimi di tensione. Bulgarelli urla, si tiene la gamba. Fabbri, preoccupato, segue barellieri e medici ed entra in campo per sincerarsi delle condizioni. Mondino è sempre più nervoso. L'Italia perde il suo giocatore migliore ed è costretta a proseguire la partita in 10, perché per regolamento non è consentita la sostituzione. Pak Duik approfitta della pausa per rifiatare e cercare la fiducia e la forza per onorare il grande leader. Gli tornano in mente le sue parole, corsa, precisione nel tiro, finché arriva il 44esimo minuto. Quella che avete sentito è la voce di Nicolò Carosio, che con un timbro a metà tra il funereo e l'incredulo descrive il gol della Corea. Sono parole e immagini che rimarranno a lungo nella memoria dei due popoli. Un primo tentativo coreano, un rinvio maldestro a campanile della difesa italiana, ancora un colpo di testa di un soldatino rosso e il pallone che passa tra le gambe di alcuni giocatori finché perviene a Pak Duik, piazzato al limite destro dell'area, che proprio come aveva predetto Kim Il-sung, si muove rapido e calcia con perfetta coordinazione verso il palo più lontano. La Corea è in vantaggio. Mentre il pubblico esulta, l'Italia si guarda negli occhi frastornata. Si va al riposo, ci sono ancora 45 minuti, ma non serviranno a niente. Gli azzurri sono allo sbando e Mondino non riesce più a trovare il bandolo della matassa. Sentite Sandro Mazzola. Ma la prima reazione è quella di rabbia, di impotenza, di voler fare. Difatti abbiamo reagito, però abbiamo reagito in un modo sbagliato, senza ragionare, andando allo sbaraglio, cercando ognuno l'azione personale invece di avere calma, continuare a giocare per far venire fuori la maggior classe. La cronaca del secondo tempo è un susseguirsi di tentativi italiani in bilico tra il tragico e il comico. Con la paura che cresce, è una partita di cui ormai la squadra azzurra non ha più nessun tipo di possesso. Una partita stregata, come si dice in genere. In mezzo, due uomini. Da una parte un Fabbri sempre più impotente e arrabbiato, nel vedere un sogno infrangersi e trasformarsi in un incubo. Lui che in così poco tempo è passato dalla provincia al mondo grazie alla sua ambizione e alle sue capacità. Dall'altra, l'umile soldatino Pak Duik, che corre, suda, incita i compagni e incarna lo spirito di Cho Lima e della sua nazione. Finisce 1-0 tra la sorpresa generale. E niente, per questi due uomini, sarà più come prima. If I can reach the stars, pull one down to you, shine it on my heart. So you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. Destini incrociati. Destini incrociati è in Inghilterra, ad assistere a uno dei più grandi ribaltoni della storia del calcio. L'Italia ha appena perso contro i dilettanti della Corea del Nord ed è fuori dal mondiale. Per gli asiatici si aprono le porte dei quarti di finale, contro ogni pronostico. Ai margini, due uomini, il cui destino si rovescerà a breve. La metafora della vittoria del combattivo collettivo asiatico contro l'arrogante individualità italiana provoca e scavalca interpretazioni su interpretazioni, uscendo immediatamente dal rettangolo verde e trascinando con sé i due protagonisti. Per Fabbri è l'inizio di un calvario. Quell'omino salutato come l'uomo nuovo del calcio italiano viene ora riconosciuto come il principale responsabile della disfatta. Le critiche della stampa sono subito feroci e dipingono la sconfitta come una Caporetto e il giustiziere Pak Duik, chissà perché, come un dentista. Due immagini che entreranno nell'immaginario comune. Nonostante il rientro in Italia venga spostato a Genova, considerata più periferica, una folla di gente imbufalita accoglie gli azzurri a suon di pomodori e ortaggi. Di quella notte resta indelebile una foto in bianco e nero con Fabbri appena sceso dall'aereo. Ha un'espressione sconvolta, impaurita. Sembra il reduce di una catastrofe. Nei giorni seguenti, Mondino crolla e reagisce male, scagliandosi prima contro il medico della nazionale accusato di aver drogato i giocatori con delle fialette rosa, e poi contro la federazione, rea di avere abbandonato la nazionale a se stessa, licenziato con disonore, nonostante altri 4 anni di contratto. Fabbri si rifugia e si barrica nella sua Castel Bolognese per paura di incontrare giornalisti e tifosi. Gli rimane soltanto la comprensione di chi, come lui, è affondato in un buco nero all'improvviso, come testimonia questa intervista scritta di Gigi Riva, il rombo di tuono italiano, portato in Inghilterra giovanissimo e mai utilizzato. Con me si comportò da galantuomo. Il giorno dopo, benché distrutto, mi prese in disparte e mi chiese scusa. Se avessi avuto il coraggio di farti giocare, mi disse, ora non saremmo qui. E le stesse scuse me le ripeté qualche anno dopo, quando per uno strano caso della vita diventò il mio allenatore al Cagliari. Ma ormai a quel punto i nostri rapporti di forza erano diventati molto, molto diversi. Ci metterà anni Mondino per rialzare la testa. Inseguito dagli sfottò, Fabbri ricomincia da capo, facendo leva sul suo orgoglio mai sopito e la sua passione per il gioco, quella per cui fin da piccolo aveva deciso che il calcio sarebbe stata la sua vita. A far riemergere Mondino dall'oblio è il Torino, che lo richiama in panchina. Con i Granata, Fabbri torna a dimostrare la sua abilità e le sue capacità da tecnico, vincendo la Coppa Italia nel 1968 e arrivando quarto in campionato, miglior piazzamento dei Granata dai tempi della sciagura di Superga. Poi il trasferimento al Bologna e una nuova Coppa Italia. Un parziale riscatto professionale sullo sfondo dei cori Corea Corea che lo perseguitano per parecchio tempo negli stadi italiani. Edmondo Fabbri muore l'8 luglio del 1995. Ai suoi funerali partecipano molti suoi ex giocatori, soprattutto del Mantova. Quel Mantova che era stato il suo capolavoro, che molti avevano additato come un piccolo miracolo. Quello che lo portò, giovane e inesperto, alla guida della nazionale. Per arrivare a una sconfitta immeritata, nulla più, un dazio che è andato oltre al suo reale valore, tanto da costringerlo a fine carriera alla seguente affermazione. I giorni che ho passato in quel periodo non li augurerei neppure al mio peggior nemico. Diverso è il discorso per Park Duik. Dopo la gloria per la vittoria, il miracolo Corea si infrange ai quarti contro il Portogallo. I soldatini di Kim El-chang, per lunghi tratti, illudono di poter ripetere l'impresa. Riescono addirittura a portarsi in vantaggio per 3-0 tra il tripudio generale. Ma i portoghesi, al contrario dell'Italia, non si disuniscono e sfoderano un Eusebio da fantascienza che schianta la piccola armata rossa con 4 gol. Finisce 5-3, con i coreani che escono dal campo a testa bassa, visibilmente contrariati, e il pubblico che tributa loro un'ovazione. Anche Park Duik esce dal rettangolo verde con il capochino. La sua mente è avvolta nei pensieri. Si chiede come farà a tornare a una vita normale dopo la fame e la gloria vissuti in Inghilterra. Si chiede se il grande leader sarà fiero di lui, dei suoi compagni, oppure deluso per una sconfitta preventivabile, ma non in maniera tanto ingenua. Tra poco dovrà tornare in patria e lì gli verrà presentato il conto, esattamente come a Fabbri. Non sappiamo con certezza quello che successe al ritorno. Le cronache locali e gli stessi giocatori parlano di un ritorno trionfale, una folla oceanica che li accoglie all'aeroporto e li osanna come eroi nazionali. Da fuori la tesi è che un Kim El-chang, furioso per la sconfitta, definì la squadra borghese rovinata dall'imperialismo, per poi spedire molti giocatori nei gulag anche a causa di una fantomatica notte brava dei giocatori dopo la vittoria sull'Italia. Quello che è vero è che Park Duik non venne mai perseguitato. Per lui la vita tornerà a scorrere placida. Ci vorrà un po' di tempo, ma alla fine troverà una casa a 2 piani in un quartiere elegante, un lavoro nel mondo del calcio e qualche ruolo rappresentativo. E in più qualche soddisfazione. Le guide turistiche lo indicano infatti come uno dei personaggi principali di Pyongyang, insieme a un politico, un compositore, una cantante lirica e un linguista. Un cambiamento notevole per una persona destinata a confondersi in mezzo a milioni di altre vite che vivono all'ombra di un leader dittatore che ancora oggi, nonostante la sua morte, è considerato capo dello Stato. Per Park Duik e la sua personale bilancia, quell'incontro fu decisivo. E questo per lui è quello che conta. Hai dimenticato